Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera a quanti ci ascoltano. Questa sera trattiamo di un argomento che direi è fondamentale nello sviluppo economico e sociale di un paese. Parliamo della popolazione, parliamo della demografia. E lo facciamo sulla base di due libri e di due autori che vi presento subito. Il primo è Nicola Sartor. Buonasera, professor Sartor. Buonasera. Nicola Sartor è professore di scienza delle finanze dell'Università di Verona, è stato sottosegretario al Ministero dell'Economia dal 2006 al 2008 e ha scritto un libro, Invecchiamento, Immigrazione ed Economia, edito dal Mulino, così come edito dal Mulino è il libro del professor Gustavo De Santis. Buonasera, professor De Santis. Buonasera. Il libro si intitola Demografia ed è un manuale universitario in cui si illustra questa scienza, una scienza che è per sua natura un po' complessa, ma alla cui base ci sono degli elementi che vedremo che dovrebbero interessare direttamente ognuno che vuole conoscere la realtà e come si sta muovendo appunto la realtà sotto un profilo economico e sociale, le interazioni tra la società e l'economia. Ecco, io vorrei iniziare con il professor Sartor perché proprio nel titolo mette in luce un elemento di fondo, direi, che caratterizza l'evoluzione demografica attuale italiana: invecchiamento, immigrazione ed economia. Cioè i due termini sono una società che sta invecchiando e in cui tuttavia l'immigrazione sta portando dei cambiamenti significativi nelle tendenze demografiche. Professor Sartor. Sì, certamente. Il libro si focalizza su quello che sta caratterizzando negli ultimi anni l'andamento demografico italiano e soprattutto sulle conseguenze sia sull'economia sia sulla finanza pubblica. È da anni che noi abbiamo un tasso di natalità molto basso, abbiamo un progressivo allungamento delle speranze di vita, quest'ultimo aspetto è sicuramente positivo, però questa combinazione fa sì che la popolazione cambi radicalmente la struttura, diventi sempre più una popolazione anziana, anzi addirittura vecchia. Questo ha delle ripercussioni immediate sui conti pubblici, basti pensare alla spesa per sanità, alla spesa per pensioni, però può avere anche delle ripercussioni di medio e lungo periodo sulla crescita economica. Allo stesso tempo sappiamo come l'Italia abbia cambiato radicalmente la posizione, in particolare dagli anni 90, da paese di emigrazione netta è diventato paese di immigrazione netta. Ecco, questo ha permesso anche, professor Sartor, di invertire un po' quella tendenza demografica di riduzione della popolazione che, se non ci fossero gli immigrati, sarebbe evidente in qualche modo. Sì, ma guardi, la diminuzione di numero non è l'aspetto problematico. Tra l'altro le ultime previsioni ufficiali Istat danno la popolazione italiana in leggero aumento. Il punto fondamentale è la composizione per età, quindi sicuramente l'immigrazione attenua il fenomeno dell'invecchiamento perché tipicamente vengono in Italia persone che fanno parte della forza lavoro, cioè in età lavorativa, e anche si è osservato negli ultimi dati dà un contributo positivo sul fronte del tasso di fecondità, cioè il numero di nati in Italia ha fermato il suo declino, tende anche ad aumentare, soprattutto grazie alla più alta fecondità delle donne immigrate di prima generazione. Ecco, proprio giudicando queste evoluzioni, queste analisi, queste tendenze, vorrei chiedere al professor De Santis, ricordo autore del manuale Demografia. La demografia può essere considerata una scienza e soprattutto una scienza esatta, cioè in grado di prevedere, non dico a lunghissimo termine, però a medio termine, gli andamenti della popolazione? Diciamo, lo sforzo mio in generale, del libro in particolare, è quello di rendere esatta la scienza nel senso di uso dei termini, capire i concetti, i meccanismi che stanno dietro. Poi tutto questo armamentario può essere usato per le previsioni e, come tutte le previsioni, sono fallaci. Le previsioni demografiche sono normalmente a lunghissimo termine, si parla di previsioni facilmente a 50 anni ed è normale quindi che ci siano errori. E quindi comparativamente con altre scienze sociali come l'economia, la politica, ecco, la demografia può vantare una capacità di previsione senz'altro molto maggiore. Ecco, quindi una capacità di previsione, però in fondo la demografia dipende dalle scelte libere e responsabili di ognuno di ogni persona, è un po' come il mercato, è solo l'insieme delle scelte di tante persone che in media poi danno un'evoluzione demografica. La demografia riesce a cogliere queste medie? La demografia tipicamente guarda cosa è successo nel recente passato in termini di valori medi e quindi da questo trae ragionevoli previsioni per il futuro, che ovviamente vogliono dire che c'è variabilità individuale, ma diciamo nell'aggregato si va tipicamente non troppo lontano, così come quando si dice che l'altezza media degli italiani è 1,78, questo non vuol dire che io prendo un italiano a casa e sarà alto così, però se ne prendo diversi, più o meno saranno, cioè, troverò di più alti e di più bassi, ma il valore medio sarà quello. Quindi così è per quanti figli faremo domani, quanto a lungo vivremo domani, posso sbagliare su ogni singolo individuo, ma mediamente mi auguro di non andare troppo lontano dal vero. Ecco, lei con un po' di autoironia, professor De Santis, nel capitolo 10 dice che per appunto le previsioni costituiscono una delle poche fonti di profitto per un demografo. Ecco, potrei magari ribadirle una battuta: molto spesso si dice che gli economisti sono bravi soprattutto nello spiegare perché hanno sbagliato le previsioni. Può valere anche per la demografia? Temo di sì. Io ho studiato con Massimo Livibacci, il quale fece un famoso intervento a un convegno di statistici e demografi in cui elencò tutte le previsioni fatte fino a quel momento, facendo vedere come erano praticamente tutte sbagliate, anche quelle fatte dalle persone a età più autorevoli dell'epoca. Naturalmente grande sconcerto e risate all'epoca, ma un po' di imbarazzo, certo. È sempre brutto scontrarsi con i propri errori, però è inevitabile e fa parte anche, diciamo, l'imparare dagli errori del passato aiuta a fare meglio in futuro. E comunque di previsioni bisogna pur vivere, perché bisogna appunto attuare anche delle politiche che tengono conto dell'evoluzione. Allora vorrei tornare con il professor Sartor, magari anche un po' con la sua giacca da politico. La politica tiene abbastanza conto dei dati demografici, dell'evoluzione e delle previsioni della demografia, dottor Sartor? Ahimè, in Italia direi proprio di no, nel senso che la demografia, come ha anche ricordato il professor De Santis, in grado di fornire degli scenari previsivi abbastanza robusti almeno per 20 anni. Ora, questo potrebbe consentire una pianificazione di alcuni interventi di politica economica, esempio istruzione, tema d'attualità, istruzione. Noi possiamo sapere con ragionevole certezza le dimensioni delle classi nei prossimi anni e quindi si può programmare il corpo docente con largo anticipo, pianificare le assunzioni. Secondo tema, le previsioni demografiche consentono di monitorare l'evoluzione della spesa pensionistica e consentirebbero di introdurre delle riforme con largo anticipo, quindi riforme che possano riguardare non diritti acquisiti, ma ad esempio persone che entrano per la prima volta nel mercato del lavoro. Tutto questo è stato sistematicamente ignorato dalla politica italiana. Beh, la politica ha un problema di raccogliere un consenso in forme immediate, la demografia ragiona su tempi lunghi, però professor Sartor, indubbiamente la politica in qualche modo con le riforme pensionistiche ha un po' anticipato le tendenze, quindi almeno su questo fronte l'Italia sembra essere messa un po' meglio degli altri paesi. Dunque, senza dubbio l'Italia è messa meglio rispetto a altri paesi che hanno anche reputazioni ben maggiori, quali ad esempio Germania o Stati Uniti, però va detto che diciamo, se l'Italia si è mossa con anticipo rispetto a altri paesi sul fronte pensionistico non è dovuto a lungimiranza del Parlamento, dell'esecutivo, ma è stata l'emergenza finanziaria. Ricordiamoci la crisi di cambio del 1992 con il marco a 1200 lire, ricordiamoci che è stata sfiorata una crisi finanziaria, erano andate male alcune aste dei bot, tutto quello ha forzato esecutivo e Parlamento nel introdurre delle riforme che altrimenti non sarebbero state introdotte. Ecco, vorrei concludere con il professor De Santis. Lei al termine del suo libro parla delle fonti e dei dati e parla anche del censimento. Ma è possibile che nell'epoca attuale, in cui possiamo avere le notizie, i dati in tempo reale attraverso una rete ormai che si estende dappertutto, bisogna ricorrere ancora a forme come quelle del censimento per raccogliere i dati sulla popolazione? Professor De Santis. Guardi, io curo anche un sito che si chiama Neodemos, che parla di popolazione ma che sono di interesse più ampi. Ne sta per uscire uno proprio sui censimenti, in cui si dimostra che la parola censimento, che noi associamo al censimento tradizionale, in realtà si è molto evoluta. Ci sono già oggi paesi che fanno censimenti che potremmo definire moderni, per esempio con introduzioni di questionari brevi e lunghi, distinti in funzione di criteri campionari, per esempio utilizzando le fonti amministrative, le anagrafi, i dati dell'INPS. Quindi si possono in realtà raccogliere dati che coprono tutta la popolazione anche in maniera alternativa. Detto questo, il censimento serve perché dà informazioni molto dettagliate geograficamente. Si sanno le cose a livello di quartiere, a livello di isolato, e non ci sono altre fonti che non siano esaustive che lo permettono. Allora possiamo dire che i dati su cui si basa la demografia sono dati certi, approvati, ufficiali, significativi. I demografi, se sbagliano le previsioni, non è colpa dei dati di partenza. Dunque, due cose. Intanto i demografi usano ormai due tipi di dati, sia quelli di censimento e comunque in generale i dati ufficiali, sia i dati campionari, che quindi sono più approfonditi su certi temi ma che non riguardano tutta la popolazione. Detto questo, da una base di dati affidabile si può partire per cercare di guardare il futuro e si può essere bravi tecnicamente e nonostante questo sbagliare, oppure non bravi tecnicamente e nonostante questo indovinarci. Però mediamente io preferisco affidarmi a un pilota bravo, anche se anche lui può fare un incidente con la macchina, piuttosto che uno incapace che qualche volta arriva in porto sano e salvo. Allora, per chi volesse appassionarsi della demografia, capire quali sono i meccanismi anche complessi con cui si elaborano le previsioni demografiche, può leggere il manuale di Gustavo De Santis, Demografia, edito dal Mulino. Sono oltre 330 pagine per 30 euro. Invece, da un profilo più di politiche economiche e di previsioni riguardo alla società italiana, Invecchiamento, immigrazione, economia, di Nicola Sartor, anch'esso edito dal Mulino, 200 pagine per 20 euro. Grazie professor De Santis, grazie professor De Santor, grazie a Valeria Bernardi in regia, a Danita Panizza in redazione, grazie a quanti ci hanno ascoltato, l'appuntamento è per settimana prossima.